9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Eccoci qua, cari amici in ascolto, buon venerdì 24 di agosto, un auguro a coloro che si chiamano Bartolomeo, San Bartolomeo. Io naturalmente ho un amico che si chiama Bartolomeo, lo chiamo Bartolomiao perché è ovvio che per noi gattacci questa è la regola. Allora, il tema di oggi è questo Consiglio dei Ministri che si dovrebbe tra poco riunire, anzi che si riunirà tra poco. All'ordine del giorno annunciato un giro di tavolo tra tutti i componenti del governo, perché poiché segna la fine delle brevi vacanze del governo, il Presidente del Consiglio Mario Monti aveva affidato a ciascun componente il compito in 2 settimane di presentarsi con una specie di aggiornamento delle diverse proposte per la crescita, e abbiamo assistito a un florileggio in realtà in questi ultimi giorni di proposte. In realtà diversi ministri e viceministri hanno parlato a ruota libera, quindi nella doverosa esplicazione del nostro dovere di tentare di dirvi ciò di cui siamo sicuri, noi non siamo sicuri quasi di niente, e questo lo trovate su tutti i giornali italiani, di che cosa davvero uscirà da questo Consiglio dei Ministri. Sappiamo che in vista della crescita è annunciato un esame di alcuni nuovi provvedimenti sui capitoli su cui il governo si era già come inoltrato, tipo semplificazioni, cioè autorizzazioni più snelle. Per le infrastrutture il vice ministro Ciaccia ha entusiasmato l'ANCE, che sentiremo anche nel corso della trasmissione, perché ha promesso niente IVA sulle grandi opere. Per gli aeroporti il Ministero dello Sviluppo Produttivo, delle attività produttive, perdonatemi, ha promesso un passo in avanti su questo piano di riordino nazionale. Abbiamo troppi aeroporti medi e piccoli in Italia frazionati sul territorio. C'è sempre dallo stesso ministero annunciato una misura per fare decrescere la dipendenza energetica del nostro paese, che suscita però una raffica di perplessità nel mondo degli ambientalisti, perché si tratterebbe di abbassare i limiti alle prospezioni e alle perforazioni petrolifere, per esempio nelle nostre piattaforme marine antistanti le nostre coste. L'obiettivo è quello di arrivare a un 20% quantomeno di autonomia nazionale. I Verdi sono contrari. Poi ci sono misure di semplificazione per attirare gli investimenti esteri, il tutoraggio. Il ministro Clini dell'Ambiente ha illustrato ieri 5 punti per la green economy. Il ministro Fornero si è aggiunto ieri da Rimini dicendo troppo cuneo fiscale sul lavoro. Vi ricordate quante volte abbiamo detto che quella dovrebbe essere la vera prima grande riforma per il lavoro, molto meglio di quella che in realtà ha diminuito la flessibilità in entrata. Il ministro Fornero ha ammesso ieri che non ci sono coperture per una diminuzione del cuneo fiscale per tutti, ma ha detto io vorrei che si studiasse almeno una misura che diminuisca il cuneo per quelle imprese che si dimostrassero attente al capitale umano, come sempre il vecchio vizio dello Stato che tende a voler dire lui chi è buono, chi è cattivo da premiare. La mia opinione modestissima è che gli incentivi di abbattimento devono essere il più possibile neutri, senza che lo Stato dica chi è virtuoso e chi meno. Però è comunque apprezzabile che il ministro Fornero abbia riconosciuto che alcuno fiscale il problema. Ha subito il tesoro, trovate sui giornali di oggi, dice: e chi ce l'ha i soldi? Chi ne ha parlato la Fornero? Insomma, c'è un piano crescita da una parte annunciato, dall'altra basta guardare l'apertura del Wall Street Journal di oggi per capire che la giornata di ieri è stata di gelata, perché il titolo di Wall Street Journal Europe è Eurozone Index Points to Recession, quindi siamo verso la recessione secca. Il dato dell'occupazione americana reso noto ieri ha gelato i mercati. Vi richiamo, prima di presentarvi i nostri ospiti di oggi, per capire come la pensano su questo pacchetto crescita e quanto invece la situazione resti fosca, vi richiamo solo alcuni punti tedeschi, visto che iniziamo sempre con i Dors e con Iannacci, vengo anch'io notturno per ricordarci qual è l'eurocontesto in cui si deve muovere e continua a doversi muovere l'Italia. Allora, Financial Times Deutschland rivela stamane che è tutto vero quanto a piano A e piano B che l'Economist aveva due numeri fa annunciato allo studio del governo tedesco, con un piano A uscita Grecia da Eurozona, piano B uscita 5 paesi tra cui non l'Italia, o quantomeno, se non è tutto vero fino alla virgola, compreso il memorandum segreto che l'Economist aveva pubblicato, Financial Times Deutschland informa che c'è un gruppo composto da 10 economisti e burocrati di primo livello, coordinati dal segretario di Stato Thomas Stephan, che si riunisce da settimane per esaminare l'impatto dell'uscita, quantomeno della Grecia, dice Financial Times, per la Germania. Quindi è una notizia, a mio giudizio, importante. Ieri, ricordate, Angela Merkel e François Hollande si sono incontrati per una comune strategia nei confronti della Grecia. Non c'è stata una vera dichiarazione ufficiale comune. Ricordo tutti che Frank-Walter Steinmeier, quindi la parte dell'SPD più euro favorevole, Steinbrück nelle ultime settimane è diventato un po' più euroscettico, ha annacquato la sua posizione euro favorevole pensando alla campagna elettorale. Steinmeier si era dichiarato favorevole a concedere alla Grecia un anno, la Grecia ne chiede almeno due. Sapete che Wolfgang Schäuble ha detto subito dopo: no, non se ne parla neanche, nessuna estensione. Negli stessi minuti in cui parlava il portavoce di Schäuble, il ministro olandese Kees de Jager ha detto la stessa cosa: per noi olandesi non se ne parla di accogliere la richiesta greca. Per capire l'atmosfera tedesca si è aggiunto un nuovo accademico, di quelli che insomma sono abbastanza seguiti sui giornali tedeschi, Manfred Neumann. Manfred Neumann, in un'intervista alla Süddeutsche Zeitung, aggiunge la sua voce a quella degli oltre 200 economisti che avevano seguito Hans-Werner Sinn, e dice: sì, in effetti, anche secondo me, anche secondo Manfred Neumann, la Grecia è meglio che esca, e la Germania avrà più vantaggi se iniziamo a mettere a verbale che i non in linea nell'euro escono, per quanti danni ci possa procurare. Il vantaggio di sottolineare che nell'euro devono rimanere solo coloro che sono in linea con l'adempimento degli obblighi è un vantaggio per tutti. Ecco, questo è lo scenario rispetto al quale dobbiamo esaminare la strategia di crescita del governo. Vediamo. Nella prima parte della trasmissione è con noi Michele Boldrin, più volte ve l'ho presentato ai nostri microfoni, insegna ed è il direttore del Dipartimento di Economia alla Washington University in St. Louis, e soprattutto, oltre a questo, è anche uno dei firmatari, anzi dei promotori fin dall'inizio dell'appello Fermare il Declino, che trovate, come ricordo, tutte le mattine sul sito www.fermareildeclino.it, con 10 punti programmatici perché l'Italia possa ritrovare in se stessa la forza, l'energia e la chiarezza per risolvere il problema del debito pubblico e per ridarsi una vera strategia di crescita. Grazie Michele Boldrin per essere con noi. Grazie. Giannino per l'invito. Allora, di questo pacchetto rispetto allo scenario, le lascio alcuni minuti, non tanto per dare giudizi su misure che io per primo dico non le conosciamo, quindi come facciamo a giudicarle, ma allo stato attuale, l'ottimismo con cui hanno parlato in questi giorni Monti, Passera, la fine della crisi è dietro l'angolo, quando poi arrivano queste nuove freddature dai mercati, insomma acqua gelata. In realtà è così che si rilancia la crescita in Italia e il governo Monti può fare solo questo, ma che cos'altro secondo lei manca e bisognerebbe davvero fare? Ma io ho commentato in questi giorni l'uscita appunto sulla finita della crisi in maniera un po' breve, stile Twitter o Facebook, perché mi sono preso anche io 10 giorni di vacanza e non ho scritto niente. A me sembra, vabbè, c'è questa storia, è doveroso, se governi è doveroso essere ottimista, quindi non ho mai capito bene perché lo sia, ma va bene, l'hanno detto. Se per crisi intendono che il rischio di default un po' calato, lo spread non è a 550 ma a 400, va bene. Per quanto riguarda tutto il resto, io chiamo crisi, quella io la chiamavo tragedia o situazione drammatica. Se invece chiamiamo crisi quella cosa che dura in realtà da un decennio e passa, e cioè di un reddito nazionale che non cresce, di una qualità del lavoro che non cresce, di occupazione che non cresce anzi cala, di giovani che guadagnano quando guadagnano tanto, 1000 euro e normalmente 600 e fanno fatica a trovare lavoro, eccetera eccetera, i servizi che non funzionano, non mi sembra che siamo fuori dalla crisi né che si veda la famosa luce alla fine del tunnel, su cui poi si fanno le battute sul fatto che sia la luce della locomotiva del debito che ci viene addosso, che l'abbiamo inventata io, Lodovico Pizzati, questa qua, no, per carità, l'avranno inventata degli altri, niente che mi attribuisca dei meriti che non abbiamo, ma comunque non importa. Allora, io non la vedo. I provvedimenti, come lei ha detto, sono ancora un po' oscuri. Alcune delle cose che ha elencato, per carità, ragionevolissime, io consiglio di dire semplificazione, ma ben venga. Riduzione del cuneo fiscale, ma ben venga, non c'è dubbio alcuno. Ora, il solito discorso, qui un po' uno comincia a sentirsi un po' come Ugo La Malfa, so che lei una volta era repubblicano, quindi uno comincia a sentirsi come Ugo La Malfa da tanti, 40 anni fa, star qui a ripetere delle cose. Cioè la Cassandra è inascoltata. Sì. E francamente non fa parte della mia personalità. La Malfa evidentemente era una persona molto più paziente e cortese di quanto io sia, io poi mi scoccio, vado a fare delle altre cose e non lo so se questo è il meglio che questo governo possa fare, io lo dubito. Alla fine è un governo che di per sé capacità tecniche, se vogliono usarle, lì ci sono ormai al potere da 10-11 mesi, trovo assolutamente improbabile che non possano avere un piano organico sulle misure per rilanciare la crescita in Italia, che non è una cosa che si rilancia in 6 mesi. Continuano invece ad alimentare questo mito che adesso prendiamo delle misure, spendiamo un po' di qua e su, c'è questa nuova cosa delle infrastrutture, no? Che ricorda molto l'acciaio socialista, facciamo le grandi opere, facciamo le grandi infrastrutture, riparte la crescita. Non è vero, non è vero, non è vero. Ci abbiamo tonnellate di studi, di esperienze, di evidenze che così non è. Occorre un riordino fiscale complessivo che da un lato abbatta il carico fiscale e dall'altro soprattutto lo abbatta sul lavoro produttivo, sulle imprese, sul lavoro dipendente. Si vogliono attrarre le imprese dall'estero, le imprese dall'estero qualificate arrivano se e solo se il costo del loro lavoro, della loro forza lavoro qualificata, tecnica, dirigenziale, non è una volta e mezzo in Italia di quello che sia nei paesi a noi limitrofi, non la Romania o la mitica Cina, ma letteralmente la Svizzera, l'Austria, e quindi bisogna operare su quel terreno anzitutto. Qui non vedo un piano fiscale organico e me ne rammarico. Secondo problema, abbiamo un problema continuo, endemico e sempre più grave di un sistema creditizio che non riesce a servire le imprese che ci sono, per non parlare di quelle che non ci sono e potrebbero esserci, se avessimo un sistema creditizio che riesce a finanziare venture capital, start-up, piccole imprese, la gente che ci prova, quelle che vogliono crescere. La ragione fondamentale per cui non ce l'abbiamo è che abbiamo un sistema bancario chiuso, con poca concorrenza estera, con poca entrata all'estero e con le grandi banche italiane sottocapitalizzate e inefficienti. E qui andiamo a una delle grandi riforme che potrebbero fare, che consiste nel prendere quei provvedimenti necessari a far sì che il nostro sistema creditizio si dinamizzi, diventi competitivo, si apra all'entrata estera e forzi le nostre grandi banche a diventare efficienti. Come si fa? Qui c'è un punto fondamentale. Le chiedo a questo proposito, si fa statalizzando, nazionalizzando MPS, come capita tra poco dopo aver tentato che la compagnia non scendesse? Ovviamente no, si fa facendo esattamente l'opposto. A me ha veramente sorpreso l'altro giorno un'intervista, credo una dichiarazione di un paio di giorni fa, di Vittorio Grilli, il quale su una questione credo di tassazione, ha detto no, le fondazioni bancarie non si possono tassare, eccetera. Per carità, non si possono tassare perché sono fondazioni private, eccetera. Ma il problema con le fondazioni bancarie, lo ripeto per la 74esima volta, e non sono solo io, siamo dozzine, continuiamo a ripetere questa cosa, è di costringerle a vendere i pacchetti di controllo delle grandi banche italiane, a venderle a chi fa banca, che tra l'altro così facendo moltiplicherebbero il loro valore patrimoniale delle fondazioni di un buon fattore, perché un conto è vendere un pacchetto di controllo, un conto è tenerlo capitalizzato al valore di borsa corrente, sono due valori molto diversi, lo sappiamo tutti benissimo, non è la stessa cosa fra comprare e vendere l'azione marginale di Unicredit e comprare e vendere il controllo di Unicredit. Quindi le fondazioni si rimpinguerebbero e potrebbero utilizzare il patrimonio così acquisito per fare quello che dovrebbero fare, cioè le opere di bene, quindi svolgere la loro funzione sociale. E potremmo avere finalmente delle banche i cui investitori sono in grado di capitalizzarle, sono in grado di dinamizzarle e creare concorrenza nel sistema bancario, che è quello che ci vuole nel sistema bancario italiano, perché è un sistema bancario, ripeto, oligopolistico e completamente asfittico, e questo chiunque faccia imprese in Italia lo sa, le proteste sono quotidiane, quindi le riforme per la crescita per esempio potrebbero essere queste due, la semplificazione fiscale da un lato e la riforma del sistema bancario dall'altro. Ci sono altre cose da fare che sono più di lungo periodo. Certo c'è bisogno di semplificazione, ma c'è bisogno di un ridisegno complessivo della maniera in cui lo Stato e le sue articolazioni, regioni, comuni autorizzano le imprese a operare, a crearsi, a fare stabilimenti, eccetera. Bisogna da un lato evitare le follie ILVA, dove è successo tutto il contrario di tutto, e dall'altro decidere che non è possibile, la solita storia, mi sto ripetendo e trovo fastidio, ripeto sinceramente con i suoi ascoltatori che probabilmente queste cose le sento anche da lei tutte le mattine, e questo mi sembra manchi, francamente, questo mi sembra manchi. Senta, l'idea che siccome so che poi ci deve lasciare tra poco, volevo chiederle come firmatario di promotore di questa iniziativa una valutazione su quello che diventa centrale in tutta la prossima settimana nelle cronache politiche italiane, che non si occupano tanto di questo tranne che nel rituale presentazione dei consigli dei ministri, quanto sono tutte centrate sul fatto che la prossima settimana dovrebbe arrivare la riforma elettorale PD, PDL, UDC con il Quirinale che se ne fa promotore, tentativo, tutti d'accordo in una settimana, niente più premio di maggioranza quello attuale, nessuno nei sondaggi attuali, anzi una legge elettorale concepita perché nessuno nei sondaggi attuali possa conquistarsi il diritto di governare, e quindi conferma del governo Monti. Ipotizziamo che questo sia lo scenario. Al di là di tutto, lei, alla luce di quello che propone insieme ai cofirmatari, io ultimo della schiera, ma insomma, noi come la pensiamo su questa roba qua? Pensiamo che sia giusto dire agli italiani il vostro voto deve essere congegnato tecnicamente in maniera tale da non contare nulla, perché meglio rimanere così com'è piuttosto che rischi di vincere qualcuno di sbagliato? Beh, guardi, la mia opinione su questo è chiarissima, io l'ho espressa quasi un anno fa, poco prima che si arrivasse infatti alla soluzione Monti. La soluzione Monti poteva prendere due strade, poteva esserci una scelta dirompente di fronte alla situazione quasi tragedia del debito pubblico dell'anno scorso a ottobre-novembre, si poteva arrivare davanti al popolo italiano e dire signori, siamo arrivati a questa situazione dopo 10-15 anni, 20 anni di errori, qua occorre dare una svolta drastica, ci sono delle cose drammatiche da fare, non solo nell'immediato ma anche che hanno effetti nel lungo periodo, sono profonde, non sono solo l'aumento delle tasse, le faccio, datemi un mandato di un anno a un anno e mezzo, perché in realtà poi per fare l'attività legislativa un anno e mezzo se vuoi, ce la fai e io lo faccio e poi vado a casa. Non hanno fatto questa scelta, hanno fatto la scelta di aggiustare, tappare il buco, usare il prestigio internazionale di Monti e di altri, il cambiamento rispetto al tragico governo che c'era prima, per riuscire a acquistare un po' di credibilità e tirare a campare. Adesso mi sembra che questa soluzione, che di cui Roma discute e io spero non s'avveri, sia la continuazione di questo. Hanno scoperto che attraverso questo governo Monti, nella misura in cui il governo accetta di tirare a campare e quindi permette all'attuale elite politica di sopravvivere e di mantenere il potere, più o meno funziona, si sopravvive. Il paese continua a rimanere in crisi, la gente che non ha lavoro continua a non averlo, la produttività non cresce, i salari non crescono, il lavoratore mediano, medio, eccetera, eccetera, la grande maggioranza continua ad avere meno reddito disponibile, però il sistema sta in piedi e non crolla. se questa è la soluzione, è tragica e continuerà a provocare declino. Quindi io credo che sia il caso di opporsi, che sia il caso di dire che c'è bisogno di parlare onestamente al Paese. Qui ritorno alla cosa con cui ho iniziato. Sì, io capisco che sia necessario essere ottimisti, ma bisogna essere sinceri prima di ottimisti. Bisogna avere la capacità di dire, guarda, si può essere ottimista, però la verità è che c'hai la cancrena lì, il dito rotto, ti esce un sangue dal naso mostruoso perché ce l'hai sfasciato, io t'aggiusto, proviamo ad aggiustarci assieme, fra 6 mesi, un anno e mezzo ricomincerai a correre, però per il momento stai abbastanza male, ci sono delle cose da fare. Le cose, quelle che abbiamo messo nel manifesto, che sembrano ovvie, fa di conto la gente ci ha detto, ma sono tutte cose ovvie, le facessero, se fossero le cose ovvie verrebbero fatte. Io credo che ci sia bisogno, e per questo io mi sono spinto assieme a lei e ad altri a spingere a creare questa iniziativa. C'è bisogno che l'elettorato italiano dia a una forza politica o un agglomerato di forze politiche un mandato chiaro: cambiate strutturalmente il Paese, prendetevi 2 anni, 3 anni, quello che c'è, cambiatelo radicalmente. Ci sono 7-8 cose, appunto, il mercato del lavoro, la tassazione, la struttura, la spesa pubblica, l'educazione, eccetera, che vanno cambiate radicalmente. Se lo facciamo, possiamo tranquillamente ricominciare a crescere, l'Italia ha le potenzialità reali. Se continuiamo a fare queste cose, come anche questo decreto crescita comincia ad apparire, di tappare i buchi, fare cose marginali e poi venderle come se fossero grandi rivoluzioni, continueremo a far finta di crescere senza crescere e declineremo come di fatto stiamo facendo da 15 anni. Grazie a Michele Boldrin, di cui condivido dalla prima all'ultima parola, nel giudizio complessivo, nelle priorità e anche in questo giudizio finale sferzante, da cui ripartiremo lunedì prossimo e martedì trasmettiamo da Vedrò in Trentino per la kermesse annuale di Enrico Letta, di cui siamo tradizionalmente ospiti. Con Enrico Letta approfondiremo questo suo entusiasmo annunciato ieri che la riforma elettorale è praticamente fatta. E quindi i tempi ci sono per una riforma buona come vuole Quirinale che neutralizza quindi la possibilità per tutti di vincere e magari poi per fare anche il voto anticipato. Io la penso come Boldrin, non mi convince questa cosa. Ora, della stessa insieme di misure annunciate, di cui non abbiamo i particolari, ma del contesto soprattutto dopo queste settimane di sospensione agostana, visto che gli indicatori continuano a essere pessimisti, le cose vanno male perché il PMI dei servizi in Germania ieri è sceso di 3 punti, molto più di quanto non ci si aspettasse, oltre ai dati dell'occupazione americana. E poi ricordate, le scadenze internazionali sono 12 settembre. Cosa scelgono gli 8 membri della Corte Costituzionale tedesca? Non lo sappiamo, perché se quelli dicono che l'ESM è incompatibile col Grundgesetz, la legge fondamentale tedesca, e per cambiare la Costituzione ci vuole un referendum, ragazzi, i mercati impazziscono. Io non voglio fare il menagramo, ma guardate che se a ottobre Israele mette in atto quello che sta facendo capire da mesi, ci sono state 2 sostituzioni al governo in vista di questo, e ha ribadito con la visita di Benjamin Netanyahu negli Stati Uniti, cioè interviene militarmente sull'Iran, guardate che il mercato impazzisce. E non solo quello, ci sono tanti elementi di incertezza rispetto a dire che abbiamo il lume, no? dell'uscita della crisi in vista, come hanno detto 2 componenti del governo, Passera e Monti, nel meeting di Rimini pochi giorni fa. Abbiamo con noi, per dirci come la pensa su tutto questo, che impressione ha di queste misure per la crescita, di come vanno le cose, Susanna Camusso, il segretario generale della CGIL, che abbiamo anche lei disturbato in realtà negli ultimissimi secondi di vacanza, dei pochi che si è potuto concedere quest'estate. Buongiorno e grazie a Susanna Camusso. Come la vede questa queste misure annunciate dal governo? È più ottimista di noi, perché oggi abbiamo iniziato una trasmissione ispirata a un forte pessimismo. Boldrin, ma lei come la pensa? Che dice? La sensazione, per le cose che per il momento si leggono, è che non siamo di fronte a nulla che rappresenti quell'effetto shock di cui ci sarebbe bisogno, ma di nuovo, come è stato per il precedente decreto crescita, tanti piccoli interventi poco finanziati che temo non avranno l'effetto di rimettere in moto l'economia, né di affrontare alcune delle grandi iniquità che si sono progressivamente accresciute in questi anni e anche negli ultimi mesi. È come se continuasse ad esserci una totale dualità tra le cose che si propongono in Europa e le cose che poi si praticano invece nel nostro paese, per cui faccio fatica a essere ottimista. Ho la sensazione che siamo alla vigilia di un periodo, quello dell'autunno, in cui i dati dell'occupazione e della crisi industriale precipiteranno ulteriormente. Un quotidiano, oggi il Messaggero, da una parte a sinistra mette nei giornali, nella vecchia impostazione tradizionalmente è la pagina di destra quella che conta di più rispetto a quella di sinistra, quando ci sono due pagine affiancate. A sinistra mette l'esame delle anticipazioni delle misure del governo, a destra dice: ricordiamo a tutti che ci sono 140 tavole di crisi aperte, aggiungendoci l'ILVA e tutto l'acciaio, qua andiamo, prima il calcolo era 360-380 mila posti a rischio, qui rischiamo di arrivare a 500 mila, è una cifra mettendoci dentro tutto insieme, ma insomma le vertenze sono tante. L'aggiunta dell'ILVA e del tutto o quasi il settore dell'acciaio italiano certo non è un bene. Da questo punto di vista i tavoli da dove ripartono? Ma ci sono stati significativi passi avanti negli ultimi mesi sulle maggiori vertenze dei settori aperti oppure no? Da questo punto di vista il governo che fa? Ma purtroppo dobbiamo dire che non ci sono stati passi in avanti. Abbiamo tavoli ormai che si trascinano da 2 o 3 anni che continuano a segnalare un punto di crisi e non evolvere. Poi sono cose diverse tra di loro. L'ILVA è una questione ambientale che richiederebbe anche scelte coraggiose al fine di decidere come si fa una politica di effettiva compatibilità ambientale con la grande industria, ma penso ad Alcoa, penso a Fincantieri, penso a tutte le altre vertenze che continuano a essere lì e non trovano delle soluzioni, perché in realtà si continua a mettere dei tamponi, perché bisognerebbe decidere dove vogliamo andare, perché questa è la domanda che io continuo ad avere. Diciamo in ogni occasione che siamo il secondo paese industriale d'Europa, ed è vero, con questo trend di crisi del nostro settore industriale, alla fine, non so in quale data magica, rischiamo di non esserlo più. Allora, vanno concentrate lì le iniziative, le risorse, si deve decidere di investire lì, e allora ci vorrebbe però il coraggio di decidere che il mercato da sé non permetterà al nostro paese di avere un assetto industriale positivo e una possibilità anche di crescere e di innovare. Anche sul piano delle infrastrutture, il continuo rinvio delle agende digitali non è che dia il segno di un'innovazione che sta crescendo. Anche le stesse cose che leggo sull'istruzione mi sembrano tutte in una direzione di mantenimento di un tasso di istruzione troppo basso e troppo poco qualificato. Allora è in questo che il sospetto è che appunto ci sia più un tirare a campare che non delle scelte e degli indirizzi. Senta, ieri il segretario della CISA in ultimi 2 giorni si è sbilanciato. Di solito i segretari delle grandi confederazioni sindacali sono prudenti quando si tratta di fare dichiarazioni direttamente politiche, però lui si è sbilanciato, ha detto sì al Monti Bis, non vedo altri statisti all'orizzonte. Prima stavamo parlando di questa manovra che è sempre più evidente, che emerge tra i 3 grandi partiti, il PD, PDL, l'UDC, col Quirinale dietro, per dire facciamo una riforma elettorale la prossima settimana nel Banco di in pochi giorni si va a votare qui nel peggio del peggio mondiale, internazionale, europeo, e anche con questi sondaggi tenere alla mano, meglio congegnare le cose in maniera che Monti resti. E Bonanni ha detto sì. Allora, siccome c'è un precedente di un segretario di un altro grande confederazione che ha parlato, le chiedo la stessa cosa. Come, con tutto il rispetto verso chi deve avere una posizione di autonomia e pretendere che anche i partiti abbiano autonomia nei confronti della CGIL, però in realtà se dovesse dire rispetto a questi problemi economici e del lavoro e al vostro punto di vista, che dicono ci vuole un intervento dello Stato più forte con un disegno chiaro, perché col mercato da solo non andiamo, ce l'ho appena detto, serve comportarsi così perché ci siano regole elettorali per cui Monti debba restare perché è il meglio eccetera eccetera, oppure è qualcosa che la lascia freddo o addirittura non la convince per nulla ed è un profondo errore secondo lei? Guardi, a parte che appunto tengo molto all'autonomia e mi pare sbagliato addirittura pronunciarsi rispetto a chi è il leader possibile di uno schieramento, io credo ci siano 2 problemi. Uno, noi abbiamo bisogno del voto degli elettori, non si può tenere sospesa la democrazia per un periodo lungo. Secondo, le cose che sono state fatte però finora mi dicono che c'è stato un tasso di iniquità molto alto nel confronto di coloro che noi rappresentiamo, e quindi innanzitutto i lavoratori. È la ragione per cui io chiederei una politica diversa e vorrei pronunciarmi rispetto a una proposta di politica, non rispetto a delle persone. Questo devo dire la verità, fino a questo momento siamo tutti d'accordo questa mattina, veniamo da culture e abbiamo opinioni profondamente diverse, ma l'idea che i programmi quasi non ce ne siano, che il voto della gente, bah, insomma, attenzione perché se conta troppo c'è troppa protesta, è che si debba risolvere tutto con un accordo, per cui è meglio affidarci ai non eletti. Insomma, descrive un paese in cui dopo 18 anni di bilancio negativo della Seconda Repubblica, diciamo che è la politica in quanto tale, cioè voi che siete in ascolto, che non dovete o non potete scegliere. Riflettiamoci, ma io sono convinto che il giudizio di Susanna Camusso, lo stesso di Michele Boldrin, che non propone proprio le stesse cose, è un giudizio su cui riflettere. E io ringrazio il segretario CGIL per essere stata con noi, la saluto e intanto ne andiamo in pubblicità. Eccoci qui, tornati in studio venerdì 24 agosto, sono le 9:39:39. 9 secondi, stiamo esaminando i tanti capitoli di questo ennesimo approfondimento per rilanciare la crescita che sono annunciati. Fino a questo momento il giudizio complessivo è che il quadro generale in cui si muove questo governo di finanza pubblica e sui vincoli gli impedisce quel cambio di marcia vero da cui dipenderebbe il rallentamento della decrescita e sperabilmente l'inversione del suo segno tornando a crescere. Ripeto, qualunque serio studio di quello che avviene in questi ultimi anni e soprattutto in quest'ultimo anno e mezzo in cui si concentra l'eurocrisi testimonia che il 75% del PIL, quello che è mercato domestico rispetto al 25% che va all'esportazione, quel 75% di PIL decresce in questa maniera così terribile, più vicino al meno 3% che al meno 2% quest'anno, e con consumi pro capite che vanno sotto il meno 3% pro capite, cioè doppi rispetto all'intensità con cui cadevano nel 2008-2009, quando pure perdevamo 6 punti di PIL. Perché? Per tre ordini di ragione, che nella gravità successiva sono questi importanza. Primo, l'enormemente accresciuta pretesa fiscale dello Stato. Primo, più tasse, questo è il punto, più tasse. Secondo, le difficoltà che a tutti derivano dal fatto, il credit crunch, che il sistema bancario trasla ai clienti l'enormemente accresciuto premio al rischio sovrano del nostro paese. Quindi questo è il secondo motivo per cui tutti paghiamo l'andamento dello spread. Le banche ce lo fanno pagare, visto che loro sono inefficienti, come abbiamo visto con Boldrin. Terza ragione è il fatto che sono diventati tutti cattivi pagatori, cominciando dallo Stato, che ci deve alle imprese 100 miliardi, cioè ci deve più di 6 punti di PIL. Ecco, questi nell'ordine le tre vere ragioni con cui si potrebbe rilanciare considerevolmente la crescita sono queste qua. Però sapete, Saffornero dice: a me piacerebbe abbattere il cuneo fiscale. Il Tesoro subito gli risponde: non si può. Però detto questo, la sola discontinuità che manca, è ovvio che alcuni dei capitoli potrebbero ottenere, se finalmente attuati, ma attuati davvero, non come le 13 agevolazioni fiscali votate nel Salva Italia che dovevano essere disciplinate con decreto attuativo del 3 giugno che poi il Tesoro non ha fatto. Se fossero attuati davvero, alcuni capitoli sarebbero molto importanti. Tentiamo almeno di sfiorarne due, e il primo di questo è quello sulle misure al rilancio dell'edilizia e delle costruzioni, di cui ha parlato il Vice Ministro Ciaccio qualche giorno fa al meeting di Rimini di Comune di Liberazione, quando è tornato sul tema delle agevolazioni con meno IVA a questo settore. E con noi Paolo Buzzetti, il presidente nazionale dell'ANCE. Gli chiedo, oltre che salutarlo e ringraziarlo per essere con noi, primo, se gli consta davvero che al Consiglio dei Ministri uscirà qualche cosa in questo terreno e come valuta questo annuncio che ha fatto il Vice Ministro Ciaccio. Buongiorno intanto a Buzzetti. Buongiorno Giannino, buongiorno a tutti. Innanzitutto c'è da premettere che per una ripresa ovviamente dipendiamo molto dal ricreare un clima di fiducia nelle famiglie, nel paese e dalle decisioni quindi anche della BCE europee, di cui siamo in attesa, Corte Costituzionale tedesca e via dicendo, perché quella è una condizione essenziale ormai al punto a cui siamo ridotti. Certamente possiamo fare dal punto di vista della ripresa del PIL interno, questo 75%, molto anche noi, e come sappiamo bene l'edilizia è il motore fondamentale della nave che si riparte per primo, permette di ripartire. In questo senso le infrastrutture sono diciamo la regina dell'edilizia come ripartenza, le piccole, le grandi. E naturalmente, però, perché ci siano le condizioni, dobbiamo dire innanzitutto pensabili dei soldi pubblici. Non illudiamoci che sia possibile fare veramente un'iniezione forte nel campo delle infrastrutture senza un pacchetto di denari pubblici. La seconda, giustamente, come ci stava ricordando Giannino perfettamente, il problema delle regole, a cominciare dai pagamenti, perché anche se si è cercato di far molto con gli ultimi decreti, il problema dei pagamenti resta tutto ed è una condizione essenziale, una liquidità fondamentale, un rispetto delle regole fondamentali. E poi le regole ovviamente al contorno, perché se dici a dei capitali privati di intervenire nella realizzazione di un'infrastruttura, bisogna gli dare un quadro certo ovviamente di regole. Sono cose apparentemente semplici, ma sono fondamentali. In questo scenario la proposta del vice ministro Ciaccia dell'altro giorno è coraggiosa, senza alcun dubbio, è semplice ed intelligente, quindi dice: se tu opere data, se tu intervieni con dei capitali privati, naturalmente le opere in cui questo è possibile, io ti tolgo la fiscalità, diciamo l'IVA intanto, che è un 18%, non te la faccio spendere. Naturalmente una cosa fondamentale, cioè dice perché tu Ragioneria dello Stato, Tesoro, la puoi accettare questa cosa? Perché l'opera di cui parliamo non è un'opera che era già in programma, che aveva in qualche modo già il pensiero di un'entrata di gettito per lo Stato. No, parliamo di opere che non si farebbero nel caso in cui questa norma non venisse applicata, per cui le facciamo con denari privati, tu scrivi tu Stato che l'avremmo fatta, quindi non mi puoi chiedere i soldi. In questo senso potrebbe effettivamente funzionare. Mi consta che in realtà ci sia l'intenzione dei ministri assolutamente di portarla e di andare avanti su questa soluzione che ci ricordiamo bene in sue forme meno semplici e meno brillanti di proposta era stata in qualche modo fermata nei mesi passati. Tutti i criteri di defiscalizzazione seria, interventi di capitale privato in opere pubbliche, assolutamente erano stati bocciati, mentre questa è una riproposizione molto più semplice, innovativa, e ci consta che sia presentata molto presto. Quindi certamente è una cosa assolutamente valida, dice nel quadro più generale, finalmente voglio aggiungere questo, di aver ho l'impressione che ci sia finalmente la decisione per far ripartire l'economia, il prodotto interno, che l'edilizia sia considerata un fattore importante. Lo vediamo con le approvazioni sul piano città, cioè interventi di riqualificazione d'accordo con i comuni importanti nelle città, con gli interventi sul risparmio energetico, su una serie di interventi ancora annunciati, semplificatori nelle norme e semplificati anche naturalmente dal punto di vista anche dell'attività privata nell'edilizia anche stessa, e poi naturalmente nella manutenzione e via dicendo. Ora naturalmente siamo partiti, no, però esatto. il pacchetto, diciamo, c'è intenzione di metterlo in piedi, bisogna far prestissimo e a mio avviso, chiedo scusa, indispensabile però una spinta, un'accelerazione, un'iniezione, diciamo, fa scoccare la scintilla con grandissima decisione. Ok, cioè, allora Buzzetti, noi ce lo auguriamo e vediamo soprattutto se il coordinamento con il Tesoro e la Ragioneria è veramente passato, perché fino a questo momento il più degli annunci si è poi infranto su questo muro e si è rivisto classicamente ieri quando il ministro Fornero ha accennato finalmente alla vera strada che può creare un po' di lavoro in più, cioè la diminuzione del carico fiscale sul contributo, il cuneo fiscale. Il Tesoro dopo 2 ore ha immediatamente chiamato tutti i giornali dicendo: guardate, noi non ne sappiamo niente, quindi niente di tutto questo passerà. Auguriamocelo, grazie a Paolo Buzzetti che saluto, adesso andiamo alle informazioni stradali e poi ci occupiamo di un altro capitolo, quello energetico, perché tra le tante misure ne è annunciata una volta ad aumentare il tasso di autonomia, che è bassissimo, energetica nazionale, ma naturalmente su questo poi i verdi ambientalisti dicono: ah, volete riempire di prospezioni petrolifere le nostre coste, i nostri terreni, aita. Ecco, allora tentiamo di capire con il massimo esperto che c'è in Italia subito dopo le strade. E mentre Jim Morrison con la sua voce vi ricorda in materia energetica che al microfono c'è un reprobo, il reprobo che vi disse subito dopo nei giorni di Fukushima che sarebbe stato un errore uscire dal nucleare, e che oggi assista a un anno e mezzo di distanza, lo dico apposta per far irritare molti di voi in ascolto, che in effetti, rispetto sempre di zero morti, siamo al fatto che il Giappone non esce c'è più e ci ha ripensato. La Germania sta facendo la stessa cosa, lo vedrete alle prossime elezioni, idem la Svizzera e così via. Meditate su chi in materia energetica asseconda le motività dicendo che siete vittime di perfidi complotti e su chi invece tenta di farvi riflettere non in nome dello scientismo e delle magnifiche sorti e progressive, no, dei produttori di energia, ma tenta di avere un po' di equilibrio e di buona documentazione nell'esame delle questioni energetiche, che sono fondamentali per questioni di geopolitica, geoeconomia, ma sono fondamentali per un paese il cui mix energetico, virgola, il nostro, virgola, grazie alla follia delle scelte emotive con cui l'abbiamo fatto, è il più oneroso che vi sia tra tutti i paesi avanzati, che si traduce in meno crescita perché è più costoso alle famiglie e per le imprese di decine di punti rispetto agli altri. Allora, fatta questa premessa in cui mi do automaticamente e autonomamente del reprobo, le misure di cui il governo sta pensando per aumentare il tasso di autonomia del nostro paese comportano i rischi su cui gli ambientalisti sono già partiti oppure no? Ce lo facciamo spiegare da Davide Tabarelli, il presidente di Nomisma Energia, che ringrazio, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Allora, siamo alle prese con una perfida manovra dei petrolieri? Occorre una premessa sul fatto che noi siamo il paese più motorizzato al mondo, perché abbiamo 35 milioni di auto, siamo secondi come auto solo negli Stati Uniti, ma se mettiamo dentro anche le due ruote, cioè i motorini, siamo i primi al mondo. Ciò significa che il principale responsabile del petrolio, delle trivellazioni, è chi la domanda, cioè noi siamo uno dei massimi consumatori e anche di tutti i derivati, dei prodotti derivati dal petrolio. Ad esempio penso subito alle bottigliette di plastica per l'acqua, che siamo i più grandi consumatori di PVC che si fa con la nafta. Detto questo, no, non siamo di fronte a un attacco all'ambiente, noi siamo una grande economia industriale, purtroppo in decadimento, e questa economia industriale si basa su anche trasformazione, anche non solo anche trasformazione delle materie prime che ci dà la natura, cioè sulle attività minerarie, cosa che abbiamo fatto per millenni, e nella modernità da circa 150 anni l'abbiamo fatto anche perforando il terreno per cercare questa materia straordinaria, e se mi consente un'esagerazione, un regalo di Dio, che è il petrolio, perché c'è una quantità di energia dentro straordinaria, e l'abbiamo sempre fatto con molta attenzione all'ambiente e con grande tecnologia proprio per evitare danni all'ambiente, e lo potremo fare in futuro, è una grande occasione per fare anche tecnologia e per lasciare più ricchezza sul nostro territorio, perché ogni tonnellata di petrolio che noi non facciamo qua vuol dire che lo facciamo all'estero. Facendo dei calcoli abbastanza sommari ma semplici, noi abbiamo, importando qualcosa come 140 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio fra gas e petrolio, che sono entrambi idrocarburi, è come che avessimo 10.000 pozzi all'estero che lavorano per noi, come quando parlavamo di nucleare, che importiamo tantissima elettricità, circa 44 miliardi di kilowattora dall'estero, è come che avessimo 3-4 centrali nucleari in Francia che lavorano esclusivamente con noi, però con dentro 4.000 dipendenti, con valore aggiunto, con tassazione. Chi ci perde il paese in sostanza se non facciamo queste cose? Quali limiti in concreto sarebbe ragionevole attendersi che venissero superati con queste misure per prospezioni e perforazioni? Ma allora, la discussione su questo decreto legislativo 128 del 2010, che fu deciso in maniera un po' strana nel giugno del 2010, a poche settimane dall'incidente di Macondo, senza il coinvolgimento del Ministero dell'Industria, sono stati posti dei limiti alle perforazioni su acqua, dove ci sono molte riserve di petrolio sotto già e gas già conosciute, su terra ci sono già notevoli difficoltà. Perciò la vedo difficile, sa? Mentre c'è questo annuncio del governo di far più trivellazione, 15 giorni fa, 20 giorni fa la regione Basilicata ha detto no, ha vietato nuove ricerche, nonostante prima abbia detto sì allo sviluppo, al raddoppio dei due grandi giacimenti storici, però ha detto no a nuovi giacimenti perché non possono fare altro, i politici sono ostaggio della cultura che si è diffusa così anti perforazione, che vuol dire poi anti industriale, in questi territori, da preservare assolutamente, molto timorosi di quello che possono fare, e pertanto la vedo difficile, ecco, da attuare, perché è inutile, il potere che hanno poi gli organi locali è altissimo, di veto, organi locali, certo, che non possono fare altro che essere contrario per rispondere a questo sentimento negativo della gente. Ringrazio Davide Tabarelli, un paese diviso su tutto e in cui il potere si estrinseca nei veti. È questo il sentiero del declino italiano. Molti hanno sono immediatamente ascoltatori, mi hanno mandato, molti, alcuni che sono più attivi nella voice, cioè con gli sms, a dirmi servo dei cementificatori, ah, nuove tecnologie, ma dobbiamo farselo le tecnologie verdi alternative, basta con il petrolio, tutto quello che volete. Riempitevi la bocca con modelli altri rispetto a quelli su cui attualmente si fa il più dello sviluppo. Nessuno dice che non bisogna investire sulle alternative, nessuno dice tutto quello che pensate voi. Un paese che ogni volta dice io ti dico di no perché voglio fare un'altra cosa è un paese che non fa più un cazzo e che si siede beato sui talloni dando la colpa della sua decrescita sempre a qualcun altro in politica, a qualcun altro fuori d'Italia, alla Merkel, ai cattivoni, eccetera eccetera. Ma che gran parte del problema è nostro, non avere le idee chiare e non avere le idee chiare su chi dare la delega per risolverle. Sentiamo Francesco da Cremona, come la pensa? Sì, pronto, ciao, sono Francesco, sono un artigiano e sono un firmatario del vostro manifesto. Ah, grazie. Ecco, io sono d'accordissimo su tutto quello che dici tutti i giorni, avrei tantissime cose da dire. Premetto che non lo sapevo perché deve essere chiaro a chi è in ascolto che non seleziono io le telefonate, quindi potete non crederci, vai avanti Francesco. No, infatti ho provato tantissime volte, finalmente sono riuscito a prendere la linea. Non lo so, io sto cercando di, con voi, cerco di capire qual è il vero problema. Sono d'accordissimo su quello che hai detto tu, però secondo me qui il vero problema è che noi possiamo fare qualsiasi cosa, ma finché c'è gente che specula, tutti i nostri sforzi saranno vani, perché noi siamo in mano agli speculatori e questo è il problema del mondo, no? Cioè noi continuiamo a far sforzi, continuiamo ad aumentare le tasse, continuiamo a cercare di uscire da questa crisi, ma la vera crisi è nella speculazione. Francesco, me. Ti interrompo, ti rispondo brevissimamente su questo, poiché per diminuire i margini di interventi sui mercati a fine puramente speculativi, a breve magari non coperti, per esempio, le misure, alzare i margini di intermediazioni per chi partecipa a questo tipo di mercato, cose tecniche, non ho tempo di spiegarle, si possono prendere, se siano efficaci, solo se coordinate nelle tre macro aree mondiali, altrimenti chi le prende da solo si spostano i flussi sulle altre due parti del mondo. Questo è vero, in larga misura è vero, però non è il problema italiano, nel senso che noi da soli queste robe non le possiamo fare. Quello che possiamo fare è concentrarci su come si fa meno debito pubblico cedendo attivi patrimoniali pubblici e non patrimoniali, e meno spesa, retrocesse, meno tasse al lavoro e impresa. Quello possiamo farlo, dobbiamo farlo, a quel punto avremo comunque meno spread, anche se la parte speculativa continuerebbe a essere elevata. Da questo punto di vista andate sul sito www.formaledeclino.it e lunedì noi ci rivediamo invece con Enrico Letta, Dave Draw, per far ci spiegare come e perché sarebbe bene questa legge elettorale in cui non contiamo un cazzo. A lunedì. Radio 24. La passione si sente.